e ti senti disperato perché non hai una casa. E ti senti disperato solo solo di notte. E ti senti disperato perché non sei un fiore. E ti senti disperato perché non puoi volare. George Way, George Way, George Way, George Way, George Way, George Way. E ti senti disperato per la tua droga, droga. E ti senti disperato per il tuo viaggio in India. E ti senti disperato per la tua politica. E ti senti disperato per la tua sessualità. George Way, George Way, George Way, George Way, George Way, George Way. Senti disperato perché non hai un amore. E ti senti disperato perché non hai un amico. E ti senti disperato in questa società. E ti senti disperato perché hai sempre fame. George Way, George Way, George Way, George Way, George Way, George Way. Vendi come un giocattolo. Al marciapiede numero 3. E la gente ti ha ucciso. E i pazzi, pazzi diversi sono loro, loro. George Way.